Siete in forma stasera, bravo. Grazie, grazie. Bravo Pardo, grazie. Vai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla al limite dove non può arrivare Higuain, ci arriva invece Caglione che prova a sfondare, pallone per Higuain, parte il tiro, rete, rete, Napoli in vantaggio, ancora lui, il Pipita. Guizzo di Allan, stiso da Nagatomo, attenzione, Nagatomo già ammonito, doppio giallo, Inter in 10, espulso Nagatomo. L'errore c'è stato perché ha ammonito il primo fallo che è stata una simulazione, quindi è stato bravo Caglione a simulare e lui ha bloccato. Secondo poteva fare attenzione sicuramente, quindi sapendo già di essere ammonito non doveva entrare. Attenzione Higuain che parte velocissimo, le pipite Higuain in area di rigore, rimontato Higuain, Higuain, ancora lui, un mostro, 2-0. Una serata magica, no? Felice per questo, felice per la gente, per noi, credo che è meritato e dobbiamo sfruttarlo che non sempre sei primo e dobbiamo adesso riposare per la prossima partita. Gajic ne ha tre addosso, un ripallo ancora, Gajic, parte il tiro, rete, Gajic, l'Inter torna in partita. Possibilità per l'Inter, D'Ambrosio che va alla cross, la mette in mezzo, colpo di testa, palo! Dal fondo Biamini la mette in mezzo, Miranda, palo sulla parata di Reina. Penso che domani dobbiamo solamente parlare del perché non siamo riusciti a gestire bene gli ultimi 20 minuti, senza parlare della classifica, senza parlare di altre cose. E dobbiamo parlare delle cose in cui abbiamo grandi margini di miglioramento e quindi domani prenderanno un cazziatone per questi ultimi 20 minuti. Film sonoro della partitissima, e oggi abbiamo le mani piene naturalmente con questa gara, ma anche con quella della Fiorentina 1-1 a Sassuolo. 800240024 è il vostro numero verde, soliti contatti, messaggi 349-238-6666 per sms e whatsapp. Film sonoro della partita di ieri sera dedicata ai nostri primi due ospiti mentre Pardo sta arrivando, sta salendo le scale. Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni e interista, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Pierluigi Pardo, buongiorno. Eccoci. Come va? Boris Sollazzo, buongiorno. Di la verità, gente, di la verità, non dire bugie. Che bugie ho detto, scusa? No, stavo facendo Roberto Mancini, che ieri, insomma, ci ha fatto ridere parecchio con quella sbugiata. A Milano, però, gli prometto che faremo un fallo sul Nagatomo uguale al primo. In area, e se lui chiede il rigore poi lo veniamo a cercare a casa. Sì, va bene, ma a quel tempo il Napoli sarà già salvo, come ha detto. Io ero un ragazzo come ha detto ieri, come ha detto ieri Sarri, coprendosi un po' di ridicolo. Abbiamo questa dichiarazione di Sarri, siamo salvi, mancano nove punti e poi c'è la salvezza, ce l'abbiamo? Non ecco. L'ho detta così, non ma, l'ho vabbè, detta sentiamo, così. Sentiamo. È inutile parlare di tante cose, ci sono 72 punti in palio, con 31 punti non siamo neanche salvi, quindi di cosa stiamo parlando? Bisogna pensare solamente a Bologna e chiuso. Non l'ha detta così, ma l'ha detto in questo modo. Ma no, è per provocare, ha detto giustamente, è inutile dire adesso che no. Cosa si può vincere, che cosa non si può vincere, con 31 punti non ci si salva, ha detto un'ovvietà alla catalano, sì, che sì. Ovviamente poi si rivolta come con tre vittorie, con tre vittorie è fatta. Vittorie e si può iniziare la festa. Esatto, siamo diversamente secondi, ragazzi. Io adesso ho questa definizione. E l'Inter è diversamente prima, Aldo Vitali. Direttore. Ciao direttore. L'Inter è seconda senza diversamente, però io non sono così, cioè sono stato peggio dopo delle partite, quindi sì, certo, mi dispiace. Poi questi due pali pazzeschi all'ultimo secondo, che non esistono, perché la storia del calcio è fatta di gol all'ultimo secondo e di rimonte clamorose, Però detto questo, onore al Napoli, però l'Inter ieri sera ha fatto una bella partita. Sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti, secondo me, l'Inter ha perso la partita, ma non il duello in prospettiva. Sono le due squadre migliori di questo campionato. Paradossalmente, proprio per le circostanze che avevano portato l'Inter in testa alla classifica, senza brillare molto, la partita di ieri ha sgombrato il campo. Cioè, ci ha fatto capire perché l'Inter sta lì. L'Inter sta lì perché è forte, perché è molto forte. Io penso che il Napoli, poi, come qualità di punta, abbia qualcosa in più. Penso che l'abbia anche dimostrato ieri nei 65-70 minuti iniziali della partita. Poi c'è il discorso del 10 contro 11, se volete è un tema che affrontiamo tra un istante, che non è chiaramente un dettaglio, no? Che affrontiamo tra un istante, subito dopo il traffico. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Palla al limite dove non può arrivare Higuain, ci arriva invece Caglione che prova a sfondare, pallone per Higuain, parte il tiro, rete! Rete! Napoli in vantaggio! Ancora lui, il Pipita! Quest'anno c'è un campione nel mio Napoli, viene dall'Argentina, lui è Higuain. Attenzione Higuain che parte velocissimo, il Pipita, Higuain in area di rigore, rimontato Higuain! Higuain! Ancora lui, un mostro, 2-0! E adesso tutta Napoli dovrà gridare gol, gol! Questo è uno dei due temi. Il Napoli ha un fuoriclasse assoluto che si chiama Gonzalo Higuain. Con Pierluigi Pardo, Boris Sollazzo e Aldo Vitali, direttore di TV Storia delle Canzoni, collegati. Pierluigi Pardo invece qui con me. C'è l'altro tema, buttiamoli lì tutti e poi ne parliamo. Mancini e Sarri su Orsato. È stato espulso per un mezzo fallo, forse il secondo. Prima una simulazione netta di Caglion. E quindi quello ha cambiato totalmente la partita, perché in 11 contro 11 non, sicuramente avremmo perso, forse avremmo vinto perché abbiamo fatto una grande partita, anche se all'inizio abbiamo fatto l'errore regalando il gol, ma insomma il Napoli è una squadra forte. Penso che le ammonizioni che sono state assegnate sono state tutte giuste. Il primo fallo di Nagatomo era davanti alla mia panchina, ha fatto un fallo su un avversario, aveva già giocato la palla da più di un secondo e il secondo fallo ha fatto un'entrata molto scomposta su un avversario lanciato, quindi ci stava, come ci sta già la Koulibaly, come Orsato è in certe partite è una garanzia, mi sembra. Allora, primo giro di valzer, Aldo Vitali, Boris Sollazzo e Pardo che fa l'arbitro. Ti piace? Sì. Dimmi, direttore. Pardo arbitro è proprio una cosa quasi impossibile. Ma sai, la giacchetta nera però voglio, quella dei tempi d'oro, così ecco, mi stira sì, un esatto. po'. Ecco. Quella di Lobello. Perché queste cose gialle dell'ANAS, francamente, sembrerei tipo il Gabibbo in giallo. Quindi. Infatti, no, le ammonizioni di Nagatomo, la prima secondo me non c'era, la seconda ci poteva stare, ma essendo la seconda un arbitro ci dovrebbe pensare su due volte, questo perché non perché lo dice il regolamento, ma perché lo dice la prassi, no? Che tante volte vediamo anche magari non giustamente che il secondo fallo da giallo, soprattutto se il primo era così e così, viene perdonato. Detto questo, Nagatomo ha fatto una stupidaggine grande come una casa, mettendosi in difficoltà. Quanto a Mancini e a Sarri, come Mancini ha cercato di rifare e probabilmente in qualche modo ci sarebbe riuscito la stessa operazione che ha fatto con la Roma, cioè chiudere la possibilità di gioco del Napoli, e con l'unica differenza che c'era Icardi invece di Jovetic, mi pare ieri sera l'unica differenza sostanziale. E poi noi abbiamo questa strana maledizione quest'anno che nelle partite importanti al primo minuto siamo già sotto e quindi è chiaro che cambia tutta l'impostazione con la Fiorentina. Addirittura c'è stato un miglioramento, perché con la Fiorentina eravamo 2-0 e un uomo in meno dopo 20 minuti. Ma è stata una cosa strana, eh? Anche questa la vedo come miglioramento, diciamo, della squadra. Boris Sollazzo e poi Pardo Fischia. Ma in 11 contro 11 l'Inter non è che aveva toccato palla, prende il gol al primo minuto e poi fa un splendido gioco difensivo. Non ho visto un'altra squadra al San Paolo, se non la Fiorentina, essere così bene messa in campo, a dimostrazione che insomma l'Inter non è fortunata ma è una grande squadra e sa come stare in campo. Però in 11 contro 11 i fatti dicono che il Napoli fa la partita, poi probabilmente sia l'espulsione sia il secondo gol a una squadra che, come ho detto, non è abituata a stare a certi livelli, dà una sensazione di sicurezza sbagliata che poi con gli AEC, come dice Sarri, diventa paralisi. È vero, secondo me, che l'Inter ieri ha il timbro della squadra da scudetto, nel senso che vale più la sconfitta con il Napoli che la vittoria contro la Roma, secondo me. Cioè, dimostra che l'Inter meritava assolutamente il posto che teneva, paga la fortuna che ha avuto in altre partite, per fortuna l'ha pagata con noi. Noi ci riprendiamo qualche sfortuna. Comunque ieri effettivamente abbiamo visto, secondo me, le due squadre migliori, e sono d'accordo che a centravanti invertiti staremmo parlando di un'altra cosa. Su Nagatomo hai detto prima, su Nagatomo il primo giallo non c'è, o comunque è un giallo debolissimo. Il secondo, secondo me, è cartellino, diciamo. Secondo me a situazione invertita non sarebbe stato cacciato, cioè? Se fosse arrivato prima il secondo giallo, okay, quello che sicuramente c'era, poi quello che invece è stato il primo, secondo me non sarebbe stato fischiato. C'era anche un intervento, va detto, di Biabiani molto duro, che non è stato invece valutato, che abbiamo anche mostrato ieri sera. Insomma, mi è sembrato un po' eccessivo Mancini, però nel suo sfogo parla anche con De Marco, parla anche insomma dell'adrenalina, cioè lui il primo a rendersi conto che insomma poi gli allenatori nell'immediato post partita hanno un livello anche di adrenalina che li porta. E poi lo sentiamo anche questo sfogo di Mancini con De Marco. Quello che dico io è che, d'accordo, il primo giallo poteva essere troppo fiscale, però se tu sei un giocatore che è appena stato ammonito non fai quel tipo di entrata, l'errore di concetto rischi, di Nagatomo secondo me rimane, esatto, perché questo Mancini lo ha sottolineato. No, la cosa impressionante è che i giocatori che pure hanno fatto milioni di partite, anche Nagatomo è uno che non so quante partite credo ha fatto, non riescono ad avere la lucidità di non fare certe cose inutili. Questo è incredibile dopo tanti anni, cioè se lo fa un ragazzino dici vabbè, ma che giocatori di grande esperienza poi commettono falli inutili, perché poi entrambi i falli erano inutili, Nagatomo, no? Completamente in zone del campo ininfluenti eccetera. È incredibile questo fatto qua, ora che ci sia evidentemente qualcosa in campo che noi che stiamo fuori a guardare siamo bravi a capire, ma che quando sei dentro evidentemente non sei completamente padrone della situazione. Direttore, ti ha convinto la formazione dell'Inter iniziale, speculare a quella che Mancini ha schierato contro la Roma, ripescati di nuovo D'Ambrosio e Nagatomo che sembrano agenti speciali per queste partite, magari ci può anche stare questo, il fatto di non essere completamente abituati a giocare con continuità può stare anche in questa spiegazione l'errore di Nagatomo. Jovetic in panchina, io faccio fatica a capirlo. Jovetic in panchina faccio fatica a capirlo anch'io, soprattutto faccio fatica a capire Jovetic, Perisic, Iaic, Icardi che si alternano, no? Secondo io, vabbè, sarò vecchio scuola, però secondo me la formazione tipo, come si diceva una volta, è quella, come del resto fa il Napoli, tanto per dire una squadra, è quella che dovrebbe dare più garanzie di tutte. La formazione all'inizio mi ha convinto, perché io quando ero a San Siro a vedere Inter Roma, quando hanno letto la formazione, ho detto al mio compagno di stadio, ho detto, secondo me Mancini o è matto è un genio, siccome poi ha vinto e ha vinto bene quella partita, perché a differenza di quello che dice il mio diciamo avversario napoletano, stasera quella partita l'Inter l'ha vinta facilmente, cioè una partita che ha controllato molto facilmente contro una Roma che in quel momento lì non era la Roma di oggi, era una Roma lanciatissima. Quindi quando ha fatto questa mossa ieri sera ho detto, beh, non dico più che matto. Però direttore, anche la forza dell'Inter secondo me è il fatto di cambiare così tanto. Prima di tutto perché ha una profondità della rosa impressionante e da questo punto di vista, sì, insomma, attenzione. Sì, è perché, moderno, diciamo, è molto moderno. Molto moderno molto, e poi magari porterà ad avere più energie dopo, nel senso che comunque poi la vera domanda è capire cosa è successo al Napoli ieri in quei 20 minuti, perché questa è la vera domanda. Stiamo parlando di una squadra che nelle ultime 16 partite fra campionato e Europa League ha fatto 14 vittorie e 2 pareggi, quindi stiamo parlando di una squadra che, tolto il rodaggio, sta dominando la stagione, per cui anche i 20 minuti di ieri sembra una roba, no, che non, di cui non ti dai spiegazione. Un po' il ritmo, che il Napoli ha giocato un ritmo veramente folle e quindi a un certo punto lo paghi, questo è inevitabile. E un po' probabilmente anche quello che dicevate prima, cioè un po' la paura di vincere, no? Cioè a un certo punto ti trovi 2-0, stadio impazzito, l'avversario che sembra groggy e rallenti un attimo, invece appena rallenti, ma non dico con l'Inter, anche se rallenti col Sassuolo, col Carpi, la partita oggi la riapri. Quindi Sollazzo aveva molta paura di un'eventuale vittoria proprio per l'ambiente, non so se gli è passata. No, non mi è passata, basta vedere l'esultanza sotto la curva di ieri, cioè, come ha detto pure Sarri, il problema di lasciare i piedi per terra è molto molto complicato. Io però, scusate, non voglio tornare sull'arbitro, però francamente se non fosse stato espulso un giocatore dell'Inter non staremmo facendo questa discussione. L'anno scorso il Napoli-Lazio, Gulam prende lo stesso rosso a 5 minuti l'uno dall'altro, il cartellino giallo, e capisco che Mancini è abituato a Felipe Melo che randella come se non ci fossero domani in piena impunità. Però veramente, quando uno come... Ma perché non staremo facendo questa discussione? Stiamo parlando della partita, non del condizionamento di questo. Ma in una partita così difficile, Orsato secondo me arbitra benissimo. Ed è un torto a entrambe le squadre, perché comunque poi l'Inter, ripeto, come diceva Lidl, gioca molto meglio in 10, e dall'altra parte, come dicevamo, il Napoli secondo me ha la paura di vincere. Voi mi prendevate in giro, pensavate che fosse scaramantico, ma quando Isai, Allan... e compagnia cantante, che per lo scudetto non hanno mai lottato, si ritrovano virtualmente primi in classifica, hanno paura, te l'ho detto l'altro giorno, Boris, non è che all'Inter abbondino i giocatori che sono abituati al livello più alto, Wolfsburg non è Empoli, cioè comunque non sono in tanti quelli abituati a vincere coppe e campionati, anche in questa Inter profonde e tutto quello che vogliamo non ce ne sono. Comunque, più semplicemente, secondo me nella partita di ieri si vedono gli atteggiamenti di queste due squadre. Il Napoli secondo me ha più qualità complessiva, però è vero pure che ha tre competizioni e spende molto, perché è chiaro che quei 60 minuti straordinari che ha fatto il Napoli ieri, di spinta, di intensità in mezzo al campo, poi alla lunga li puoi pagare. Secondo me ieri nel microcosmo della partita di ieri li ha cominciati a pagare. E l'Inter ha una gestione molto diversa, perché ha forse più giocatori, perché li ruota nettamente di più, perché vince molto spesso delle partite, è successo, senza brillare, senza spendere così tante energie, non ha le coppe, quindi insomma è l'esatto contrario fra, diciamo, una macchina sportiva molto brillante che ti fa godere molto e utilitaria, di lusso, diciamo. Alcuni giocatori che sono diventati imprescindibili, ovviamente Higuain, Insigne, Jorginho a centrocampo, ma ci metterei anche Allan, cioè ci sono alcuni giocatori dei quali Sarri non può fare a meno. Ma sembra fatto apposta per giocare insieme il Napoli, per così come è costruito. Io non cambio un'idea che ho dato sia evidente. Ci sta che poi c'è anche il logorio. E ieri, secondo me, negli ultimi 20 minuti, ecco qui Andrea ci scrive: ricordate che a questi ritmi il Napoli non può reggere a lungo. È chiaro che per vincere il campionato, cosa che secondo me è probabile, il Napoli dovrà vincere delle partite, magari anche in maniera meno brillante, risparmiando delle energie, e dovrà ovviamente gestire l'Europa League nel miglior modo più possibile, giusta, ma questo è un discorso che verrà visto che è qualificato. Certo. Io ringrazio Boris Sollazzo e Aldo Vitali. Sì. Però non è facile, perché Sarri non credo che sia proprio, non sia capace di giocare in una maniera più prudente. Cioè credo che proprio il Napoli, che secondo me è il favorito, gioca, premetto, gioca al calcio più bello, ma non ieri sera con la Fiorentina, cioè partite meravigliose del Napoli. forse se vogliamo trovargli un limite è proprio questo, che deve giocare sempre così, perché anche l'Empoli dell'anno scorso, che vinceva delle grandi partite e poi prendeva delle grandi botte, comunque giocava sempre uguale, non giocava, non andava a Torino con la Juve giocando un calcio speculativo, giocava come questo che era un marchio di fabbrica, un marchio di fabbrica di Sarri. Vi ringrazio. Mentre il Mancio fa il contrario. Il Mancio fa Mancini. Grazie Aldo Vitali, grazie Boris Sollazzo. Ci dobbiamo fermare per la borsa. Torniamo. Di una bellezza dal punto di vista dell'equilibrio. Erano anni. Basta contare gli scudetti che ha vinto la Juventus nelle ultime stagioni, i punti di distacco per capirlo. Borsa, torniamo subito. Luigi e Christian già in linea. Fuori! Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. Tutti convocati. Scusa, tu sei lì per dire questo, per cortesia, di la verità, è un fallo d'ammonizione in una partita così? L'ammonizione non è tanto il tipo di fallo. Che cos'è? È un fallo nella loro metà campo, che riparte. Ma quale importanza? Nella loro metà campo, ma quale importanza? Il regolamento comunque. Ma quale regolamento? Ma dai, su. Ma no, non andate, date retta a me, fate più bella figura. Io capisco. Non dovete andare a dire queste cose qua, perché io sono qua, è chiaro che sono un po' teso dopo la partita, no? Appunto. Soprattutto perché. No, ma sono teso perché poi ascolto che tu dici queste cose qua. E allora divento ancora più teso. Perché non state a casa, non andate a dire quelle cose lì. Perché io se andate lì a dire delle bugie. No, ma non deve andare lì. Sto guardando le immagini televisive. Ma che è un fallo d'ammonizione. Scusa, è una partita Inter-Napoli. Ammonisce un giocatore e le spella al 40esimo. Per un mezzo fallo. Orsato ha interpretato la gara in questa maniera, se andiamo a vedere i falli che ha fatto, quale? Le ammonizioni che ha fatto. Andiamo a vedere il contatto. È una simulazione, è il gioco del calcio, questo qui non è il ping pong, è il gioco del calcio o il basket, non è il basket, che magari qualche contatto ci può essere o non ci può essere, però qua è il gioco del calcio, non puoi ammonire un giocatore, un difensore così per un fallo così nella loro metà campo al 40esimo del primo tempo, ma dai, non scherziamo. De Marco e Mancini a Mediaset Premium, sì. Stracci che volano, serata tranquilla ieri, serata proprio Luigi, rilassante, sentiamo quasi. Luigi e Cristiano e Cristian che sono lì da un po'. Luigi, buongiorno, dica. Buongiorno, due cose, condivido tutte le analisi, però pongo due problemi. Uno, che ieri sera la partita dell'Inter ha messo in evidenza che il punto debole sono le due fasce laterali, due terzini, dei quattro che ha Mancini a disposizione non è contento di nessuno, quindi cioè D'Ambrosio e Nagatomo, dice D'Ambrosio e Nagatomo, e anche Santon, Telles, forse Telles è l'unico che mi sembra, ma sugli altri penso che sul mercato si chiederà di intervenire. La seconda mi sembra ancora più evidente, c'è un caso Icardi, perché io l'ho seguito per il primo, quando ha giocato non ha gestito una palla, servito male, ma neanche lui che si sia molto, e quindi per me quello è un caso palese. Se poi lo mettiamo in confronto all'altro che era dall'altra parte, insomma. Sì, il confronto è impietoso, mio caro. C'è Silvano, interista da Trento, che scrive: abbiamo giocato in 10 anche il primo tempo, morale Icardi, meno figa più panca. Sì, Cristian Milano. No, l'avevo letto, mi chiedevo se invece l'hai detto, sì. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo fare una notazione. Allora, alla fine del primo tempo l'Inter aveva fatto due falli, un giallo e un rosso. Il Napoli ha fatto quattro falli, due gialli. In totale sono stati fatti sei falli in un tempo di gioco tra Napoli e Inter. E Orsato, che oggi prende 7 sui giornali, ha distribuito 4 cartellini. E per voi questo è normale? Sì, non è normale, sono d'accordo che non è normale, però voglio dire, non è che tutti i falli sono uguali. Io ti ribadisco, per me il primo non è da giallo, e il secondo è invece la giallo, e c'è comunque un errore da parte di Nagatomo che ha ammonito, dovrebbe avere, l'ha detto Vitali attento qualche istante fa, dovrebbe avere la lucidità, è facile da qui commentando con i piedi fra l'altro in questo momento sul coso quasi sdraiato sto, quindi capito, però non ci sono dubbi, non ci sono dubbi che lì ci sia una ingenuità. È chiaro che la somma dei due cartellini è una somma che fa arrabbiare Mancini, ma questo è abbastanza normale, dai, logico, abbastanza insomma, soprattutto in una partita clou, no? In un match come questo, una partita che spariglia la corsa per il titolo. Sì, detto questo, fossero stati invertiti i cartellini ci sarebbero strilli ben più pesanti e anche più condivisibili. Ci ascolta sempre lo zio Bergomi, eh? Beh, ciao Beppe, come stai? Ciao a tutti ragazzi, come stai? ciao. Bene, tutto a posto, voi? Beh, non c'è male, siamo qui a parlare di Orsato e amenità varie, dicendo però che no, partiamo invece, scusa, adesso caso Icardi, dicendo partiamo che invece dalla bellezza della partita di ieri, perché insomma poi tante volte mi sembra che siamo bravissimi, no, nel farci le pulci, livellamento verso il basso, il campionato, c'era stato un brutto Juve-Milan, tanto per essere chiari, orrendo. Un bruttarello Inter-Juve prima, insomma, però ieri sarà una bella partita, no? Sì, dopo Napoli-Fiorentina è la migliore che ho visto quest'anno. Esatto. Napoli-Fiorentina è stato il massimo perché tutte e due le squadre hanno giocato fin da subito. L'Inter ha rispettato troppo il Napoli, nel senso è andata con un atteggiamento di inferiorità che l'Inter non deve avere e non ce l'ha per profondità di rosa e per qualità dei giocatori che ha a disposizione. Poi dopo è venuta fuori la forza dell'Inter che si è vista. Una volta liberata mentalmente questa squadra dalla dimostrazione di che forza può avere. Ecco qua un ascoltatore ci scrive: se l'Inter rimaneva in 11 non vinceva lo stesso, è stato solo l'orgoglio che ha tenuto in piedi il risultato. Questa è Stefania, è stato solo no, al di là di come sarebbe andato a finire, ma dico è stato solo l'orgoglio. Che cosa è successo in quella mezz'ora finale? Perché mi sembra che insomma il tema sia quello, il tema è capire perché il Napoli, che era stato scintillante fino a quel momento e lo è stato negli ultimi due mesi, abbia avuto una mezz'ora così difficile e che cosa ha messo in piedi l'Inter. L'Inter è una squadra, Pier, ha dimostrato di essere una squadra. Allora, Mancini anche dopo l'1-0 la squadra non si è scomposta perché sa, allora, la difficoltà che hanno le altre squadre, cioè la forza dell'Inter la capisci quando ci giochi contro, perché quando se tu la vedi non ti prende l'occhio perché non gioca un grande calcio rispetto a Napoli o Fiorentina, però quando ci giochi contro capisci la fisicità, le potenzialità offensive, i giocatori, cioè se tu vedi quelli che sono stati fuori ieri, io avrei fatto un'altra, l'unica scelta diversa che avrei fatto da Mancini è la prima punta. Cioè giocando così Jovetic, c'ho anche Palacio, c'è uno un piccolo, veloce, scattante, ma non perché Icardi veniva sempre servito con queste palle lunghe in mezzo a due giganti, non l'ha mai preso, e quindi avrei giocato in una maniera diversa visto qual è stato l'atteggiamento. Per il resto se l'è giocata anche bene, però la forza dell'Inter la capisci quando ci giochi contro per fisicità e qualità di giocatori che ha a disposizione Mancini. Ti ha sorpreso Felipe Melo in panchina? Sì, no, assolutamente non c'entrava niente, o lui o Medel, deve avere delle contro il Napoli, visto che Mancini le ultime partite le ha sempre giocate a specchio rispetto all'avversario, quindi devi avere delle mezzali più dinamiche, e Felipe Melo effettivamente o lui o Medel, tutti e due insieme uno era di troppo. Sì, l'Inter, quindi stai dicendo la grande forza dell'Inter è quella di riuscire a imbruttire gli avversari, comunque a far giocare male gli avversari. Sì, assolutamente, perché è una squadra molto fisica, è una squadra che non ti concede pochissimo e poi è forte ragazzi, ma io quello che dico, Mancini continua a ritenere Napoli, magari altre squadre più forti, ma se noi solo analizziamo ieri chi aveva fuori l'Inter e chi aveva fuori il Napoli. Il Napoli togli questi 11 e Gabbiadini e Mertens non ha tanto, e cioè stanno giocando sempre quelli. Gli 11 di partenza posso anche pensare che possano essere più forti degli 11 dell'Inter, ma durante un anno devono tenere una condizione incredibile per tanto tempo, mentre l'Inter ha un sacco di giocatori, secondo me, molto forti. Sì, sì, e poi non ha le coppe, però non ha le coppe. Scusa, fammi rispondere, c'è cioè, cioè il solito caro Pardo, dopo la fine, come dopo la fine Champions possiamo dire che ieri ha vinto il Napoli ma l'Inter non ha perso. Beh, in qualche modo sì, nel senso che sono ci sono sconfitte brutte, c'è stata quella della Roma l'altro giorno a Barcellona, e ci sono sconfitte invece che raccontano di una grande qualità, di una grande dignità, e quindi da questo punto di vista, proprio come la Juve a Berlino, io penso che l'Inter ieri sia uscita assolutamente a testa alta, e non è un caso che molti tifosi interisti oggi si sentano magari con più percentuali e più probabilità di vincere il campionato rispetto a ieri, nonostante la sconfitta che rimane, perché poi il dato è questo qui. Se la guardi in prospettiva è così, ha ragione lo zio quando dice che l'Inter è più profonda. Secondo me il Napoli in questo momento è migliore da diversi punti di vista, banalizzando. A gennaio che devono fare? Se tu fossi per migliorare, tutte e due. Il Napoli deve prendere un centrocampista forte, assolutamente, perché il primo rincalzo è David Lopez ed è troppo poco, e quindi a centrocampo deve intervenire e fare qualcosa anche davanti, se c'è la possibilità. L'Inter, io so che Mancini vuol prendere un altro giocatore d'attacco, perché vuole una seconda punta rapida, veloce, non so, un Bellarabi di turno, quei tipi di giocatori lì, e la sta cercando, perché non si fida di alcuni che è in rosa, non voglio fare nomi perché non mi sembra corretto, però sta cercando un giocatore del genere. Poi per il resto mi sembra che in tutti i reparti sia a posto l'Inter. Non so se farà qualcosa in uscita, perché Ranocchia sicuramente vorrà andare a giocare, se ha ancora una chance di andare a fare l'europeo io gliela conciderei a questo ragazzo. Sì, sono d'accordo. Un'ultima cosa, zio, è banale dire che a parti, cioè che a centravanti invertiti forse sarebbe finito in un altro modo e forse la classifica sarebbe diversa. Secondo me è banale, perché qui bisogna andare più profondo, in questo senso che Higuaín sta giocando così quest'anno perché ha un allenatore che lo coinvolge, è entrato in empatia con lui, e la squadra è molto più corta rispetto al passato e lui viene maggiormente coinvolto, e quindi dà una grande disponibilità e vengono fuori le sue qualità. Quindi bisogna andare a fare i complimenti a Sarri, che sta facendo rendere così tanto Higuaín. E non so, facendo una partita molto difensiva, Higuaín avesse fatto la stessa gara, questo non lo penso. Meno palloni, sicuramente. C'era anche da dire che ieri mancavano Gabbiadini e Mertens. Io penso che nel calo finale del Napoli, gli ultimi 20 minuti, c'è stato anche questo elemento qui, perché è chiaro che se tu hai giocatori di gamba e tecnici freschi, insomma, penso che avrebbe anche messo più in difficoltà i difensori dell'Inter. Insomma, penso che sarebbe stato un finale un po' diverso. Anche se probabilmente era centrocampo che hanno bisogno di. Sì, un po' di energia, qualcosa di meglio di David Lopez. Ma, e quindi il campionato che lo vince? Il Napoli, l'Inter, oppure c'è una terza? La Juve. Allora, io sono innamorato della Fiorentina, ragazzi. Come gioca la Fiorentina, adesso è stanca, ho visto anche ieri sera un po', fa un po' fatica, però ero a Basilea. Questa è una squadra che gioca bene. La Juve rientra perché ha capito una cosa: deve fare come l'Inter, non prendere gol, e prima o poi lo fa. E quindi ha dato solidità, e mentalmente all'inizio pensava di andare in campo e vincere la partita solo perché aveva lo scudetto sulla maglia, invece ha capito che deve rispettare l'avversario ed essere umile, e allora se questa squadra continua così la Juventus rientra assolutamente. Grazie Beppe. Grazie. Ciao Beppe, ciao. Ci fermiamo per il traffico. Subito dopo Ring Tiki Taka. Mamma mia. Dighe. Reina ne ha fatte 3 di parate straordinarie, quindi è stato bravissimo. No, pensavo fosse gol, sinceramente, sia il colpo di testa di Jovetic che quello di Miranda, pensavo fossero uno entrasse, perché dalla panchina non si vedeva benissimo, quindi. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento. Convocati. Ma perché vi state accanendo su di un episodio? Perché che ce l'hanno chiesto, Aurier, ma ce l'hanno chiesto. Perché ne stiamo parlando. Non ci stiamo accanendo a niente, stiamo spiegando che Piotr Mancini non ha dato bugiardo a nessuno. E il tuo Napoli è primo in classifica e rilassati, ma chi io ho a levare? Cioè, non è che dobbiamo solo parlare dell'Inter e di un tortino arbitrale che ha avuto, se poi di calcio devo devono parlare solo quelli che pensano di saperne più degli altri, allora va bene, parlate anche di la realtà. Testimonia un Napoli primo in classifica e abbiate rispetto di questo Napoli primo in classifica. Non è che ci sono le persone per bene, quelle che dicono che l'Inter ha avuto un Pulcinella, e le persone per male che invece dicono guardate anche al Napoli. A parte invertite, Raffaele, avresti fatto l'inferno. A parte invertite, avresti fatto l'ira di Dio, diciamo la verità. Sei sempre lì a contare, sei sempre lì a contare i numeri, i rigori, i dati, non dati. A parte invertire avresti fatto l'inferno, diciamolo tutta, dai, su, è inutile, adesso fai il superiore. Sei sempre lì con le tabelle. Avrei degli detto come ha detto Cesare, io non l'avrei dato, ma lui l'ha dato perché non è chiaro. C'è qualche incivile. Ma la, incivile, ho chiesto buoni, una frase che ha detto. Quando non riesci a una... Buoni, un attimo, fammi sentire Auriello. Devi offendere. Offendere? Che ho detto? Offendere. Perché mi hanno segnalato. Pierre, vuoi dirimere questa questione? Mi fare sentire, io non ci sto capendo niente. Che succede, Auriemma? Cosa dite? Raffaele, prego. Mentana è andato via per caso o è rimasto? Mentana è appena andato via, un pezzo prima, perché doveva andare via. Mentana è andato via. No, mi dispiace perché mi raccontano di una sua espressione infelice e sulla quale credo che non finirà qui. Perché ha detto Pulcinella, che era ancora Pulcinella prima. Scusa. Ring tiki taka di ieri sera. Sì, sarà tranquillo, ho deciso per vedere un film a casa e sì, eh. Sì. Dura. No, beh, dura, insomma, voglio dire, il programma dallo bene. È chiaro che mi sarebbe piaciuto, sì, insomma, diciamo, tu mi conosci anche, sì. Non è che io amo proprio la rissa. E francamente, ieri è successo di tutto. Allora, Ferrero, lo diciamo, appunto, a un certo Massimo punto Ferrero mi è scomparso. Poi stamattina ha fatto un tweet, ho provato a richiamarlo ieri sera per farlo stare. E non lo so, ma io poi ho rivisto la puntata. Insomma, nella prima parte della puntata l'ho coinvolto, ha parlato varie volte. Ovviamente, poi c'era tutta una parte sulla Samp che a quel punto non l'abbiamo più fatto e poteva essere anche quello, quindi mi dispiace insomma che non abbia trovato spazio come avrebbe voluto, però c'erano, come avrete capito, 28 persone che parlavano contemporaneamente e la gestione del traffico non era semplicissimo e ovviamente dovevamo cominciare da Napoli-Inter che era finita un'ora prima. Queste sono esigenze giornalistiche. Poi c'è stata questa cosa, anche Ferrero. Poi c'è stata questa cosa insomma di Mentana Auriemma, sulla quale ovviamente mi spiace, insomma, siamo a disposizione, credo sia con la radio o la TV, se ci sarà un chiarimento, insomma, l'abbiamo sentito il pezzettino, no? A me dispiace soprattutto quando poi, e questo è successo ieri nella parte finale della trasmissione, a un certo punto sembrava veramente più una questione di antipatie personali o di vicende retoriche più che della sostanza. Cioè, se dobbiamo discutere sull'espulsione di Nagatomo, poi, discutiamola anche in maniera. Voglio dire, se l'adrenalina vale per gli allenatori come Mancini, può valere anche per. Però ecco, per insomma, diciamo che l'auspicio è quello, un po' più tranquillo, è un po' più sereno. Ieri ci sono veramente state buoni. Massimo veramente. Napoli, buongiorno. Poi c'era Cruciani portava un po' di pace, certo, come al solito. Massimo, pronto? Buongiorno, salve. Posso parlare? Sì, dica. Prego, prego. Ah, buongiorno, salve, io chiamo da Napoli. Io non sono un sfegatato tifoso del Napoli e non è che lo seguo con molta attenzione. Tuttavia, devo prendere atto che ieri, a quanto ho capito, l'Inter ha vinto 2-1. Perché visto i commenti che sento dappertutto, sembra che alla fine non si faccia altro che parlare dell'Inter e della forza dell'Inter anziché della bravura del Napoli. Comunque, essendo una squadra anche più piccola, dimensionalmente parlando, anche in termini societari, comunque sta dando dei buoni risultati, il campionato non è finito, no, ma voglio dire soltanto ai giornalisti che sono solamente schierati con squadre del nord di essere un po' più equilibrati, equidistanti. Lo dica pure ai giornalisti che crede, no? Io diciamo da già parecchio tempo qual è la nostra idea. Lungamente mi sono speso forse in maniera anche eccessiva, con quasi un eccesso di certezza sulla forza del Napoli in questa stagione, quindi anche fosse soltanto per questo, diciamo che se il Napoli va bene vuol dire che ci capisco un po' di più piuttosto che se va male. Napoli parliamo ogni puntata, ne abbiamo parlato tanto anche ieri, abbiamo cominciato con lancia questo messaggio. Se Mancini fa quello che abbiamo sentito prima e la partita è finita da un'ora, è normale che si parli anche di questo, come è successo oggi in radio. Devo salutare, devi andare via. Sì, mi spiace. Sì. Vabbè, ci sentiamo, vediamo, magari faccio 3 1/4, vediamo, dai. Dopo il GR. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. Strappato a Pierluigi Pardo un tempo supplementare. Cosimo, Andrea e Giuseppe, facciamo Cosimo, Andrea, Giuseppe. La Trinità, da dove partiamo? Da Cosimo, che Cosimo. È già da prima del GR. Buongiorno. Cosimo. Buongiorno. Dica. Mi dica, allora, volevo parlare della partita del Napoli-Inter. Sì. Io non l'ho vista, mi hanno detto che l'Inter ha giocato bene quando stava perdendo 2-1. Allora vuol dire che non ha giocato più con i 9 uomini dentro la propria tre quarti, aveva bisogno di fare il risultato, primo. Poi un'altra cosa, dal 5 maggio, io sono juventino, dal 5 maggio non ho mai sentito uno criticare il signor Buffon della papera che ha fatto del 2-1. Non dico più niente. Quale? 5 maggio di che anno? Il tiro di Messi, che lui si è adagiato su giugno. Sì, okay. Che su 5 maggio è un'altra cosa nella sfera del calcio italiano. Vabbè, sì, anche nella letteratura. Beh, sì, adesso insomma ritornare sul gol di Messi a Berlino. Vabbè, sì, sì, possiamo farlo volendo. Poi sì, la deviazione poteva essere un po' più sull'esterno. No, le hanno detto bene, però Cosimo. È vero, non hanno giocato tutti con 9 uomini dietro. L'ultimo 20 minuti abbiamo visto una bella squadra vera. Detto questo, insomma, siccome era uno scontro diretto e il risultato dello scontro diretto è particolarmente importante, insomma, il Napoli ieri ha di che essere felice, perché secondo me ha preso 3 punti. Dimmi una cosa anche sulla Fiorentina, questo 1-1 Sassuolo, un po' stanca, ha ragione lo zio, un po' stanca, ma guarda, un po' sotto ritmo anche. Io la Fiorentina bellissima come al solito, la Fiorentina penso che sia tiki-taka viola, penso che sia sì tiki-taka, però anche con più quest'anno con più capacità di verticalizzare, secondo me è una squadra ulteriormente cresciuta e sta facendo benissimo. Penso in generale che abbia qualcosina in meno di un altro paio di rivali per poter puntare del titolo, ecco, quindi questo mi sembra abbastanza pacifico, però sta facendo un campionato eccezionale, merita un grande applauso, merita consenso, perché veramente Sosa fa un calcio, secondo me il calcio della Fiorentina e quello del Napoli unito a quello della Roma quando era in condizione è quello sicuramente più bello che d'Italia. Potevi vedere Andrea, Giuseppe italiano. O Sergio? Andrea Ravenna. Buongiorno. Buongiorno, volevo fare intanto i complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo fare i complimenti anche a Pardo per il suo tiki taka. Grazie, ne ho bisogno oggi. Ieri stava pesante. Sto scherzando. Per carità, però insomma un po' pesa. E volevo dire che comunque do ragione a noi interisti. Adesso non mi ricordo come si chiama quello del Napoli. Auriemma ha esagerato, perché comunque se vinceva l'Inter a lui gli scocciava che magari delle azioni non andavano bene, cioè se c'erano degli ammoniti, dei gol fuori gioco, cioè avrebbe brontolato. Quindi sì, ma un po' gioco delle parti, allora, ragazzi, noi le facciamo sempre parti. Ricordo intere puntate l'anno scorso sul gol non gol della Roma Udine piuttosto che su Juve Roma. Questo poi sai, quando Mancini esce da quella partita lì con quei toni lì, insomma, è inevitabilmente porta a far sì che chiaro. Se ne parli, ma insomma, se ne parla senza che nessuno abbia diverse volte si è la verità rivelata in questa stagione, ma non toglie nulla, secondo me non toglie nulla alla grande partita del Napoli per 70 minuti e alla orgogliosa reazione dell'Inter, quello aspetto tecnico ne abbiamo parlato, secondo me alla forza di Higuain, che in questo momento è in assoluto, l'anno scorso erano Higuain e Tevez i due giocatori che per personalità e per forza, quest'anno Higuain è nettamente il miglior giocatore del campionato. Può tenere questo rendimento? Giuseppe, Modena può tenere questo rendimento? Sì. Higuain. Ma sì. Guarda, Higuain l'anno scorso ha fatto, tutti parlano della brutta stagione di Higuain, con i quattro rigori sbagliati, ha fatto 29 gol in stagione l'anno scorso Higuain. Quindi capisci che stiamo parlando di un fenomeno. Quest'anno però mi sembra più motivato, più in feeling con l'allenatore, quindi secondo me, insomma, può superare anche quei 29 gol. Giuseppe da Modena. Sì, buongiorno. Buongiorno. Con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Che canzone è? Non lo so. Modena, Modena di Antonello Venditti. No, io sono napoletano trasferito a Modena. Allora, senza giacca e cravatta. Allora niente. Allora, l'altra sera abbiamo cantato io e il dottor De Luca e c'era anche il presidente del Genoa Preziosi, abbiamo fatto un karaoke cantando Senza giacca e cravatta di Nodangelo, una delle canzoni più difficili della storia, anche se De Luca è molto bravo a fare il controcanto. De Luca ormai è star, star. Superstar. Star, sì. Star, sta monetizzando anche da un punto di vista proprio di successo con le donne. Prego, merita, Giuseppe, scusami. Giuseppe. No, io penso che già avete detto voi tanto quello che volevo dire io, nel senso che l'Inter abbia giocato molto bene gli ultimi 20 minuti, però io sono molto contento dei primi 70 minuti del Napoli. Ha ragione. Beh, ci mancherebbe altro, anche del risultato volendo, e del primato in classifica raggiunto, e anche di un altro dato che le posso buttare lì. E che è un dato interessante: il Napoli ha recuperato 10 punti all'Inter in 8 partite. Questa, sì, questo no, è un altro dato. L'ultima cosa che volevo dire è che diciamo il signor Mancini molto bravo, però secondo me lui vuole un po' sviare questa cosa dell'arbitro. Penso, ho visto anche la partita della Fiorentina, cioè ci sono 3 rigori nettissimi. Cosa dovrebbe dire la Fiorentina allora? No, certo. Cioè, certo. No, ma infatti, sì, ma infatti ma sì. Allenatore difende però la sua io squadra, dico anche una cosa che è, e questo è evidente, quando l'allenatore dell'Inter o del Napoli o della Juve o del Milan in una grande partita fa quello che ha fatto ieri Mancini, cioè esce portando inevitabilmente per i modi e per quanto lui parla dell'episodio il tema, e del tema si parla, non c'è niente da fare, quindi poi può essere un tipo di strategia, può essere redditizia, può non essere elegante, se ne discute ma cioè, per anche Mancini per, come per magari altri, dicendo no, che magari uno sbaglia, ma se ne discute, è impossibile di fronte un episodio del genere non parlarne, così come era impossibile un anno fa non parlare, sì, dopo Udinese Roma o dopo Juve Roma, ma, no, ma insomma anche Sarri, anche dopo Genoa Napoli, anche Sarri ha più volte difeso, ha parlato la sua anche squadra, dei palloni, cioè, ma ci sta, fa parte legittimamente, ha chiesto rigori, ha aperto dossier, ma lo fanno tutti, difendono le proprie squadre, loro le difendono e noi ne parliamo con grande serenità, io credo. Sergio Verona, buongiorno. Buongiorno. Cosa ne dice dell'avvicendamento di Mandorlini con Del Neri notizie di oggi? Non mi interessa più di tanto. Frega niente, porta sella, ho capito. Va bene. No, la mia... no, io volevo semplicemente... Beh, ma molti tifosi dell'Ella si importerà, insomma. Certo. Mandorlini lì dal 2010. Dica. Volevo semplicemente dire che secondo me questa esaltazione dell'Inter mi sembra un po' spropositata. Cioè, di fatto è una squadra che ha perso quasi tutti i confronti diretti, non è prima in campionato, non ha le coppe, e sentire anche Bergamo mi sembra che sia una squadra perfetta, no, non lo è. No, però confronti diretti, era in testa la classifica fino a ieri e ha colpito due pali al 94esimo. Detto questo, io credo anche che in qualche modo, e io mi ci metto per primo perché io sono uno che da 2 mesi va dicendo delle cose esagerate forse sulla forza del Napoli che mi ha colpito, perché secondo me è la squadra più forte del campionato. Quindi alla luce di tutto questo, probabilmente ieri qualcuno si aspettava, soprattutto sul 2-0, che la partita venisse presa in mano dal Napoli in maniera 11 definitiva. Contro 10, 2-0, con la squadra più brillante delle ultime partite, che sta vincendo in casa contro una squadra un po' misteriosa nel suo essere prima in classifica, credo che in pochi si sarebbero aspettati quei 25 minuti finali. Per cui il motivo per il quale oggi se ne parla molto è che forse era un po' sottovalutata l'Inter prima. Certo. Quindi secondo me è abbastanza normale. Il campionato è lungo, il viaggio è lungo. Io penso che ieri l'Inter nella sconfitta abbia dimostrato qualcosa. Dimostrano delle cose, che alla lunga, potrebbero essere importanti, perché non ha le coppe, perché ha una rosa molto molto ampia e soprattutto perché ha vinto fin qui tante partite senza faticare. Sì. Se il Napoli comincia a vincere, in parte è già successo, perché per esempio a Verona contro il Chievo, anche contro il Verona ha aspettato, se il Napoli riesce a vincere, come credo, le partite anche senza brillare, anche senza stancarsi tanto, secondo me rimane la più forte. Vi saluto adesso. Ciao. Che c'è Ricci in arrivo. C'è Ricci in arrivo, ma intanto... io ti saluto con una voce imperdibile. Mihajlović che stasera Milan gioca Crotone. Una partita che nessuno può perdere. Milan Crotone. Ecuatore gioca bene. Coppa Italia. Bene, bene. Al di là c'è Coppa Italia, al di là che è Crotone, perché come ho detto e ripeto, è un obiettivo importante per noi e Crotone è un'ottima squadra. Non dobbiamo prenderlo sotto gamba. Ecco. Allora, su quello... devo essere bravo io e devono essere intelligenti i giocatori di capire e di non sottovalutare e giocare. Poi se giochiamo come sappiamo, naturalmente siamo più forti e la vinciamo, ma non la vinciamo solo a parole, dobbiamo dimostrare sul campo. Chiaro che anche Filippo Maria Ricci dalla Spagna non si potrà perdere per nessuna ragione al mondo Milan Crotone di Coppa Italia. No. Assolutamente no. Oh, mi ricorda la Cavese di Lidl. Sì, la Cavese di Lidl. Però a quei tempi c'erano i 60.000, famosi 60.000 a San Siro. Sai che stasera sono in 6 o in 60 senza il Milan. Togliamo degli zeri. Sì, continua a togliere degli zeri dal tabellone il Barcellona a sto giro. Soliti interpreti, Neymar, Messi e Suarez. Che palle. Lo so, però dai, meraviglioso, no, non possiamo dire così. No, dai, no, guarda. No, io. No, c'è solo un problema che siamo a novembre. Vediamo quanto durano. Insomma, se possono arrivare così fino alla fine. Comunque fa piacere, da vedere. Non è una squadra che vince così tanto per farlo. Non so, cioè, c'è sempre un. Perché fa piacere giocare, cercano sempre lo spettacolo. Sì. Ha ripreso un po' di colore Don Raffaele? Un pochino, sì, lì a Eibar, no? Il trionfo del trabajo, il lavoro. Preso un ricostituente, diciamo così. Esatto, bravo, mi piace. Sì, un ricostituente. E adesso vediamo, c'è questa, adesso c'è un po' di coppetta del Re, col Cadiz, il Real Madrid, il Villaloense per il Barcellona. Adesso dovrebbe riprendere colore. Poi c'ha il Getafe, il Real Madrid, insomma, tutto. Le cose che continuano a farsi male, mi fa tanto ridere, l'anno scorso mettevano in croce Ancelotti e Giovanni Mauri perché c'erano un sacco di infortuni muscolari. Quest'anno siamo a 16-17, siamo solo mica a male, mica male. Esatto, il primo dicembre. Concorrenza alla Juventus. Così. Filippo, intanto ti prepari a ricevere anche quest'anno il solito pallone d'oro, no? Candidati mai visti? Candidati totalmente inediti per l'11 gennaio quando verrà lanciato il pallone d'oro. I candidati Ronaldo, Neymar e Messi. Ma che sorpresa, roba da cadere dalla sedia. 9 su 9, no? Ronaldo 8 su 9 perché nel 2010 lo fecero fuori i tre del Barça. E Neymar sostituisce Neuer, se non sbaglio, no? Sì. Però io avrei fatto un pallone d'oro blaugrana, per me doveva esserci Suarez e non Ronaldo. Per me non ci sono dubbi. Cioè, Ronaldo tre del Barça. Sì, Ronaldo ha fatto 48 gol. Politicamente però, scorretto. Lo so, però Ronaldo non ha combinato niente. Perché sì, 48 gol, però Suarez ne ha fatti 40. Ronaldo ha vinto 0 trofei, quell'altro ne ha 24 su 5. Mm. E più una valanga di assist. Insomma, è stato fondamentale Suarez nel triplete del Barça. E adesso sì, sembra che il triplete si faccia ogni anno, però il Barça fino al 2009 non l'aveva mai fatto. Che l'abbia ripetuto, non è che adesso è diventato così, diciamo, facile né abituale. No, questo è chiaro. Per me Suarez aveva molti più meriti di Ronaldo, anche perché poi era arrivato comunque, anche come dici tu, cioè questi sono, cioè Ronaldo c'è sempre, Suarez arrivava da una squalifica pesantissima, una squadra nuova, campionato nuovo, tutto si è adattato alla grande. Per me meritava lui. Sì, poi bisogna andare a contare gli sponsor, a vedere chi ha i baffi, le striscette, eccetera, eccetera, perché sappiamo bene come nel gran bazzaro bordello del pallone d'oro queste cose sono importanti. Io faccio il tifo per Neymar, che arriverà terzo, naturalmente. Sarà l'ancella. Secondo forse. Messi. Secondo dietro a Messi. Cioè, Messi, secondo me, devo dire, è indiscutibile il pallone d'oro. Insomma, se no, non saprei a chi darlo. Non so come dire, è arrivato comunque in finale anche in Coppa America. Sì. Doveva vincerla, però insomma, comunque è sempre decisivo. Ha segnato anche lui 48 gol. Insomma, Messi sì. E Neymar, vediamo il prossimo. Magari il prossimo anno. Dai, vediamo. Speriamo in questo, perché sennò. Non è moltissima ormai la distanza tra i due in valore assoluto. No, per questo. Adesso vediamo, vanno anche molto d'accordo, vediamo se continuano ad andare d'accordo, no? Vabbè, questi sono cose abbastanza aleatorie, perché sappiamo che nello spogliatoio del Barça c'è il re che ha, insomma, che ha fatto, che ha rivendicato la sua corona l'anno passato. Da lì in poi Luis Enrique si è inchinato, ma questa è storia e cronaca, e siamo arrivati al Barcellona di adesso. La lotta feudale lì tra i tre, cioè tra il re e i suoi vassalli, mi sembra Suarez assolutamente dedicato ancora, anche Neymar, però magari forza di crescere, poi vediamo, no? Senti, ma dimmi un'ultima cosa, dimmi che c'è qualcuno in Spagna, anche nel regno del bel gioco, come dice qualcuno, che apprezza il campionato italiano di questa stagione e il gioco del Napoli e magari della Fiorentina. Ieri sera, c'è un peccato capitale, che purtroppo la Serie A anche prima si trasmetteva su Canal Plus, quindi cioè l'equivalente di Sky, piattaforma con milioni di abbonati, è passato a Bein Sports, che non ce ne voglia, però si vede praticamente solo su internet. E questo ha tolto ovviamente tanti spettatori, e questo è il problema minore, nel senso che anche la Champions è finita lì ed è uguale, però quindi c'è meno gente che guarda la Serie A, però io vedo un apprezzamento mostruoso per il campionato, per una partita come quella di ieri sera, per il Napoli. No, assolutamente, c'è grande interesse, detto, appena sminuito dal cambio di broadcaster, però se lo merita, dai, finalmente, sono un bel campionato. Ma finalmente, appunto. Ma tu l'hai vista ieri sera? Hai vista Napoli? Purtroppo ho visto solo il primo tempo, perché poi diciamo che invece la parte migliore era la seconda. Sì, la parte migliore è stata la seconda, quando l'Inter ha avuto una grande reazione con inferiorità numerica, manco a dirlo. Con contorno di enormi polemiche su espulsione di Nagatomo. Quello io continuo a non apprezzarlo, e poi dopo insomma c'è sempre un contorno abbastanza avvelenato attorno al calcio italiano, che secondo me prima se lo tolgono di dosso meglio è. Mai. Lo so, però si potrebbe diminuire un po', perché in realtà maggiore serenità, per me è maggiore anche il bel gioco, la capacità di apprezzare i bei gesti, che adesso della partita di ieri, anche della grandissima prestazione dell'Inter, poi debba restare la polemica per l'espulsione o Callejón che simula o no, per me è un peccato. Lo so che io sono un marziano in questo, magari ormai ne vivo all'estero da troppi anni, però ci sono state troppe cose belle per concentrarsi sul brutto, dici tu, meno estetica e meno bella. Poi abbiamo aperto con Lidl, spagnolo. Chiudiamo con Lidl, no? In 10 si gioca meglio. Si gioca meglio, certamente. Scusa, no? Ciao Filippo. Ciao, grazie. Filippo Maria Ricci. Abbiamo Massimo Viterbo, Maurizio dalla provincia di Forlì Cesena. Massimo, buongiorno. Buongiorno e grazie ragazzi. A lei. Allora, intanto posso dire che Mancini usa ormai un metodo molto ben riuscito, la butta sempre in caciara, giustamente fa i suoi interessi e quelli della sua squadra. Dopodiché vorrei passare a parlare un po' di lui, come Juve. Lui come gli altri, sì. Assolutamente sì. Sì, sì, più o meno. Funziona così ormai, no? Per quanto riguarda la Juventus, il tuo parere, ma secondo te, visto e considerato che si sta affacciando nelle zone alte, l'ansia d'alta classifica per le altre squadre, quanto può far tremare la premiership del campionato? Cioè il fatto che la Juventus stia arrivando? Assolutamente sì. Tanto, ne abbiamo parlato ieri, ieri ho usato l'immagine dello specchietto retrovisore, adesso chi guarda, chi è davanti e guarda nello specchietto retrovisore vede i fanali bianconeri. Io credo che la Juventus rientrerà, non pensavo sinceramente potesse rientrare, mi sembrava più problematica quella chimica e mi sembrava più problematico quell'ambiente, invece ho la sensazione che qualcosa sia successo anche in quell'ambiente, che si sia compattato. Poi la frase più banale è dire le vittorie aiutano a stare sereni, a continuare a vincere, eccetera eccetera, però guardando in faccia Allegri e sentendolo nelle conferenze stampa ho la sensazione che abbia ripreso in mano la squadra, e la qualità la Juventus ce l'ha. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Cesena, auguri per la trasmissione che è sempre bella e quando posso la grazie. Seguo. Sono interista, quindi lo dichiaro prima. Una domanda che voglio fare, ho sentito oggi parlare del Napoli in modo entusiasta per i primi 70 minuti. La mia domanda è questa qui, tolti tre tiri in porta di Higuaín, dove ha fatto 2 gol e mezzo perché c'è stata la parata del portiere dell'Inter sul terzo tiro. Quanti tiri in porta ha fatto il Napoli in tutta la partita? Insomma, Maurizio, mi sembra abbastanza una questione di lana caprina. Ha trovato il gol dopo un minuto e 36 secondi, se non ricordo male. Quindi quel gol meraviglioso di Higuain ha disegnato un'altra partita. Non era richiesto il bombardamento, però mi sembra che il Napoli abbia tenuto perfettamente la palla e la partita e il disegno tattico, come al solito, ossessivo di Maurizio Sarri. E poi c'è stata la reazione dell'Inter, che abbiamo sottolineato e che va sottolineata. Adesso però ci fermiamo. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Andrea Roccabelli in regia, Giovanni Melchione in redazione. Torniamo domani dopo il giro delle due. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao!